Grazie di esistere, innanzitutto. Grazie di esistere. Grazie per la compagnia, grazie per l'info. Buongiorno, grazie, e vi ringrazio per la vostra cortesia e il vostro savoir-faire. E grazie, grazie di esserci, eh. Grazie di esistere. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Sfogala, amore, sfogala, dai, che ti fa bene, dai, sfogala, sfogala. Dai, che ti fa bene, dai, che fai i sentimenti. Comunque, è stato un momento di smarrimento. Dai, vuoi sapere la verità? Dimmela! Vuoi sapere la verità? Non mi è neanche piaciuto. Può finire così, povera me, donna di cuore che amo le storie a lieto fino e fine. E insomma, ci si sposa sempre meno. Quelli che si sposano lo fanno, ma poi si separano rapidamente, un po' come ha fatto Valeria Marini. La stiamo leggendo un po' tutti sui giornali. 8 anni di fidanzamento e poi è bastato avere l'anello al dito per un anno per volerselo togliere, anche con grande dolore. Ci si stufa del matrimonio, ma sciogliere questo vincolo dal punto di vista legale è abbastanza complicato. Ecco perché il governo, come anticipato, si sta muovendo per rendere le separazioni più semplici e più veloci, insomma il divorzio lampo. Il ministro della giustizia Andrea Orlando ha annunciato, nell'ambito della riforma complessiva del settore prevista nei prossimi mesi, che per le separazioni e i divorzi consensuali non sarà più necessario andare davanti al giudice, ma basterà un avvocato o gli avvocati. Ne parliamo oggi con il nostro avvocato Gianetto Regassani, presidente e fondatore dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, autore de I Perplessi Sposi. Buongiorno avvocato. Buongiorno a voi. Che è tornato a trovarci dagli studi, direttamente dagli studi di Roma, di Radio 24. Sì, sì. Sono contenta. Bellissimi. Senta, avvocato, divorzio lampo con l'avvocato, quindi. Come la vede questa ipotesi di riforma che si rifà al modello francese? Ma il divorzio lampo riguarda il divorzio breve, ciò sì. Che sta per avvenire nel nostro paese, cioè la riduzione dei tempi della separazione. Da 3 a 1 anno in caso di presenza di figli, a 9 mesi quando non ci sono figli. La questione invece della possibilità che l'avvocato possa redigere l'accordo, quindi la separazione o il divorzio consensuale, è altra cosa. Allora, per quanto riguarda il divorzio breve, noi avvocati della nostra associazione siamo già espressi. È sicuramente un passo molto importante, però non risolve una questione. Riduciamo i tempi della separazione, ma non riduciamo il numero dei processi, perché resterebbero ancora 2 processi distinti e separati per fare poi il divorzio. Cioè, prima c'è la fase della separazione con un incarico all'avvocato, una parcella all'avvocato, la separazione poi potrebbe avere sbocchi in appello o in Cassazione, ma non è finita qui. Dopo, se vuoi divorziare, devi tornare dall'avvocato, devi dare un'altra volta il mandato, pagare un'altra parcella e fare un secondo processo, che anche in questo caso, se non c'è un accordo, potrebbe avere sbocchi in appello e in Cassazione. Teoricamente, nonostante questo divorzio breve, potrebbero esistere 6 gradi di giudizio, 3 per la separazione, 3 per il divorzio, per dire basta a un matrimonio. Credo che quindi si tratti del classico compromesso all'italiana, perché negli altri paesi la soluzione è stata trovata, cioè la separazione è stata abrogata, eliminata, c'è solo il divorzio, per cui la gente non aspetta più anni e anni di processo, divorzio e basta. E questo è dimostrato, tra l'altro, da un riscontro molto importante, il turismo divorzile. Non dimentichiamo che gli italiani, che conoscono molto bene ciò che avviene in Europa, si organizzano quando sono d'accordo marito e moglie, prendono un volo charter e vanno a Bucarest piuttosto che a Madrid, sì, o a Barcellona o a Londra, dove vogliamo, e divorziano, cioè ottengono una residenza in loco, magari affittando un monolocale, e dopo 6 mesi si rivolgono all'avvocato spagnolo, inglese o tedesco, e ottengono poi immediatamente, massimo 3 mesi, il divorzio. Tornano in Italia, fanno tradurre quella sentenza straniera in italiano, la vanno a depositare presso l'ufficio dello Stato e Anagrafe del loro comune di residenza. Ed è fatto. Il divorzio è fatto. Quindi, voglio dire, mentre noi stiamo facendo tutti questi ragionamenti sui tempi ridotti della fase della separazione, gli italiani vanno all'estero. E quindi questo fatto ci deve far riflettere. Si accorciano i tempi e si risparmiano anche soldi, avvocato? Assolutamente sì, anche se non è sempre così, perché se fai il divorzio lampo a Londra piuttosto che a Parigi è molto costoso rispetto a Bucarest. Anzi, a Bucarest addirittura hanno pensato di fare delle agenzie con 3.500-3.600 euro tutto compreso, si paga l'avvocato, il viaggio andata e ritorno, le spese di interprete, per cui addirittura è diventato un business per la Romania divorziare gli italiani. Insomma, un po' come è successo per i dentisti, avvocato. È un po' come succede per la procreazione medicalmente assistita. Ecco, esatto. Il turismo procreativo. Cioè, in Italia non riusciamo a esercitare i diritti, siamo costretti ad andare all'estero, come se noi vivessimo in un altro continente. Siccome c'è l'Unione Europea, sappiamo perfettamente che se l'Italia non ci dà un diritto, ce lo andiamo a prendere fuori. Quindi perché non adeguarsi a quello che succede in Europa? 800 24 00 24, l'avvocato Gassani è stato chiarissimo. Come la pensate voi? Iniziate a chiamarci, iniziate anche a scrivere, lo state già facendo al 349 238 6666. E Franco, avvocato Gassani, mi scrive: ma per chi ha già una separazione in atto cosa cambia? Ma se dovesse passare la legge avrebbe sicuramente un effetto retroattivo, per cui nel momento in cui c'è una separazione, se c'è una separazione consensuale, sicuramente si può immediatamente fare riferimento a questa nuova legge. Ma se è giudiziale, e quindi sappiamo perfettamente che le separazioni giudiziali, come dicevo prima, possono avere sbocchi in appello e in Cassazione, la vedo dura. Cioè, questa legge, questo divorzio breve, servirebbe soltanto quando le coppie vanno d'amore e d'accordo anche a separarsi, cioè, tutto pronto, tutto fatto. Ma siccome purtroppo nel 35% dei casi si assiste ad avere proprio guerre in tribunale, dove ci cerca di fare del male e si allungano i tempi a dismisura, io credo che appunto l'unica soluzione per deflazionare l'indecente carico di lavoro dei tribunali italiani sia proprio abrogare la fase della separazione. Lo dico contro gli interessi della categoria. Non so quanti colleghi in questo momento stanno benedicendo quello che sto dicendo, però siccome abbiamo rapporti, invitiamo a partecipare, avvocato. Ecco, cosa dice? Il problema è questo, che se uno parla con un avvocato francese piuttosto che tedesco o inglese o anche romeno, che cosa ci dice? Ci dice che è inammissibile che lo Stato debba imporre ai propri consociati una pausa di riflessione per decidere di questioni della propria vita privata. Certo. Perché la questione è questa: l'Italia impone agli italiani di riflettere. Allora, la questione è di principio. Allora, se un principio è giusto, ma se è sbagliato non è una questione di quantità. Io credo che non sia giusto nemmeno imporre a un cittadino 5 minuti di riflessione, non 9 mesi, un anno, 3 anni. È una decisione personale. Al massimo potremmo stabilire una separazione facoltativa se entrambe le parti ritengono opportuno questo momento di riflessione. Ma per esempio, per chi si è sposato al comune, per chi non vede il matrimonio come un fatto religioso, perché deve sottostare alle stesse trafile, alla stessa via crucis di chi invece giustamente si è sposato in chiesa? Quindi credo che ci siano delle cose che bisogna assolutamente modificare il nostro paese, perché è inutile lamentarsi che i tribunali sono presi d'assalto se la stessa coppia deve tornare 2 volte e deve fare 2 processi per ottenere lo stesso risultato. 800 24 00 24, microfoni aperti. Avete vissuto una separazione, un divorzio in prima persona o anche nella vostra famiglia? Siete figli di separati o di divorziati, oppure parenti stretti di chi ha vissuto questo passaggio? Perché, diciamolo, il divorzio è un problema di coppia, ma diventa un problema di famiglia. E allora, quali sono le difficoltà che vi siete trovati a superare? I tempi, le lungaggini? È stata una prova che vi ha segnati, ma anche fortificati? E se invece questa prova la state ancora affrontando, quali sono invece i dubbi che non siete ancora riusciti a sciogliere? Diritti e doveri, rivendicazioni economiche, professionali, professionisti a cui rivolgerci? Per aiutarvi ci siamo noi oggi insieme al nostro avvocato, ma domani c'è anche il dizionario della vita pratica del Sole 24 Ore in edicola con Il Quotidiano. Si intitola Separati e divorziati, il rapporto tra ex coniugi. L'amore è una pericolosa malattia che, a differenza del morbillo o della varicella, rischia di contagiarci più volte nel corso della nostra esistenza. Professore, posso farle una domanda personale, visto l'argomento? Sono pronto a tutto. È sposato? Io? No, io sono felicemente divorziato da quasi 8 anni. Ragazzi, rassegnatevi. Prima o poi nella vita siamo tutti destinati a diventare ex. Bene, se ieri la separazione era un rischio, oggi uno degli esiti altamente probabili di ogni unione di coppie, una strada che qualsiasi famiglia potrebbe trovarsi ad imboccare, come scrive nel suo libro Simona Rivolta, psicologa, autrice del libro La nostra famiglia da qui in poi, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Dottoressa, qualcosa è cambiato, almeno sembra, se le coppie si sposano sempre meno e divorziano sempre con maggiore facilità, e non uso questa parola per come sinonimo di leggerezza. Forse il divorzio ha proprio modificato l'idea stessa del matrimonio, dell'unione. Prima era per sempre, indipendentemente dalla realizzazione e dalla riuscita del rapporto, però invece si pretende che questo sia soddisfacente e appagante. In questo forse si differenziano le coppie di oggi rispetto a quelle di ieri. Lei che cosa vede? Ma io credo che paradossalmente la differenza più importante riguardi non tanto un calo di investimento sul rapporto di coppia, ma piuttosto un aumento di questo investimento. Sembra un controsenso, sì. No? Perché le statistiche ci dicono che quasi la metà delle coppie, oltre alla metà delle coppie, se teniamo conto delle unioni di fatto, nel giro di 15 anni si separano. L'impressione però è che l'importanza assegnata all'unione di coppia sia più elevata e che però a diventare importante sia stata la qualità del legame, il livello di soddisfazione, quindi non tanto la tenuta o la durata come era in passato. Questo riflette l'ottica più individualista che anima i soggetti attuali quando avviano un progetto di coppia, quindi è la qualità dell'esperienza affettiva ed emotiva che la coppia procura ad essere continuamente monitorata. Le coppie sono diverse perché le persone sono diverse e hanno del proprio percorso di vita un'idea molto diversa da quanto accadeva in passato. Questo ovviamente lo vediamo non solo nella coppia, ma nella famiglia, nel lavoro, nelle relazioni in generale. La mia impressione, lavorando con le coppie che si rivolgono a noi quando si trovano in difficoltà, è che ci sia la tendenza a monitorare la propria condizione in rapporto a un modello molto elevato. Questo non perché le persone siano diventate improvvisamente così centrate su di sé da non tenere conto del resto, ma perché c'è in gioco la stessa idea di chi si è, di che cosa significa la relazione di coppia nel proprio progetto di vita. Naturalmente questo ha degli aspetti molto positivi perché a differenza di quanto accadeva in passato, le persone, in particolare le donne, si sono liberate della necessità di accontentarsi di situazioni anche francamente insostenibili. Il risvolto negativo però è che si fatica a vedere la vita in coppia e alla lunga in famiglia come un percorso che prevede alti e bassi e non solo gli alti, come tutte le cose che riguardano gli esseri umani e le relazioni che intrattengono. I nostri centralini sono presi d'assalto, allora vorrei dare la parola naturalmente ai nostri ascoltatori che stanno chiamando all'800240024. Abbiamo in linea Gabriella da Parma, Raffaello da Padova e Maurizio ancora da Padova. Gabriella, buongiorno. Buongiorno, mi scusi l'intrusione. No, venite un po'. Venite un pochino a fagiolo, noi abbiamo 2 ragazzi in affido, di cui una ha 18-19 anni e l'altro 11, li abbiamo in affido da diverso tempo. Il problema nostro essenziale di coppia è solamente l'educazione dei ragazzi. Sì. E uno va a sinistra e l'altro va a destra. L'ultima discussione sabato, va bene. Io chiaramente siamo un po' vincolati da questi... naturalmente dalla serenità di questi ragazzi. Sì. Il discorso se è una nostra decisione, ormai il ragazzo di 18-19 anni forse capisce, sarà dispiaciuto, d'accordo, il piccolo mi diventa molto difficile per capire un attimino. Ma scusi Gabriella, lei sta decidendo di separarsi con suo marito perché non riesce ad avere con lui una collaborazione nei confronti della gestione dei bambini, dei ragazzi? Ma l'educazione preoccupazioni soprattutto, diciamo che di verbi in assoluto sono soprattutto per loro due. Ah. Cioè questo è l'occasione dello scontro, la gestione dei figli, l'educazione dei ragazzi. Quello, perché dopo, chiaramente dopo, quando uno mette su degli rancori, sono quei mattoncini che si rassodano, poi diventa difficile poi dopo buttarli giù. Quindi dopo anche la minima cosa, anche magari detta in un certo modo, viene interpretata, ma questo non è niente di nuovo per nessuno, cioè certo, questa è la vita. Quindi, allora Gabriella, la sua domanda è? Volevo sapere a livello legale e soprattutto chiedo alla psicologa, sì, che cosa succede se dovessimo separarsi. Certo, grazie Gabriella. Avvocato Gassani. Ma abbiamo due ragazzi, uno di 19, l'altro di 11, un 19enne chiaramente è maggiorenne, sì, quindi non è oggetto di affidamento, anche se ha diritto a essere mantenuto. E per quanto riguarda il più piccolo, 11 anni, si tratta di una normale separazione, quasi sicuramente viene applicato l'affidamento condiviso e poi si stabiliranno i tempi di frequentazione dei genitori e l'assegno di mantenimento, quindi nulla di nuovo. Credo che però che qui ci siano degli svolti psicologici. Più certo, per ecco, questo vogliamo coinvolgere la dottoressa Rivolta. Dottoressa, quando una coppia si separa, si dice per fortuna non ci sono i figli, ma nonostante nel nostro paese il tasso di natalità sia uno dei più bassi in Europa, i figli spesso ci sono e con loro bisogna imparare a fare i conti, perché crescere in una famiglia separata di genitori separati ha una sua fisiologia. Insomma, non è realistico, come lei scrive e sottolinea nel suo libro, né utile attendersi dai figli che si comportino come se niente fosse cambiato. Per questo la nostra amica ha chiesto anche un aiuto a lei, dottoressa Rivolta. C'è un maggiorenne e ma c'è un ragazzino di 12 anni. Sì, ma la situazione della signora mi sembra una situazione decisamente delicata, nel senso che, se ho capito bene, questi due ragazzi sono in affido, sì, e quindi questo complica ulteriormente la situazione. Questo perché l'aspetto meno considerato, io credo, almeno da quello che mi sembra di vedere sia in studio che per esperienza diretta, è che la difficoltà maggiore per i bambini e anche per i ragazzi quando i genitori si separano è quella di far fronte a una situazione che effettivamente cambia completamente il loro modo di vivere, certo, in un modo che è per loro che è più complicato, nel senso che diventano persone che oscillano continuamente tra due poli affettivi estremamente importanti, ugualmente importanti, ma devono compiere un adattamento enorme rispetto alla possibilità per esempio di passare del tempo con ciascuno dei due. Questi sembrano aspetti banali, ma in realtà poi la vita è fatta di aspetti banali, no? Per cui immaginiamoci noi adulti se dovessimo cambiare casa una volta alla settimana per 3 giorni, per 7 giorni, per un giorno ogni 10. Questo, dottoressa Rivolta, è quando, cioè è nel post, ma al momento come si dice ad un ragazzino o anche ad un bambino, come si comunica una decisione così importante? Spesso i genitori cercano di rassicurare i figli dicendo non cambierà nulla, noi ti vogliamo bene, noi siamo i tuoi genitori, ma alla fine poi il bambino si rende conto, bambino o ragazzino si rende conto che la situazione è completamente diversa. Io capisco che non si può trovare una frase magica che ripari i bambini dal dolore, ma per dare un consiglio proprio alle ascoltatrici che magari si ritrovano nella situazione della nostra amica, come si comunica ad un ragazzino una decisione di questo tipo? Si comunica la verità, naturalmente la verità va dosata e filtrata a seconda dell'età del bambino o del ragazzino. In questo senso, proprio perché bisogna parlare di verità, non è molto utile dire per te non cambia niente. Sì. È chiaro che c'è un elemento di verità che è fondamentale, che è quello per cui l'amore dei genitori non muta, i genitori restano tali. Il modo in cui però la relazione con i genitori può essere portata avanti sarà radicalmente diverso. Questo va detto, anche se naturalmente è necessario tranquillizzare, rassicurare i bambini, in particolare quelli più piccoli, riguardo alla possibilità che ci saranno dei cambiamenti, ma che questi cambiamenti sono organizzabili e in una maniera che sarà per loro prevedibile. Per i bambini in particolare la prevedibilità di quello che succede, il poter far conto su una sequenza di eventi che loro abbiano in mente è rassicurante, è molto importante per non far cadere quelle certezze che vengono a mancare quando la vita familiare viene sconvolta dal fatto che un genitore di fatto non vive più insieme a loro. Allora, per adesso ci fermiamo perché è tempo di dare la linea ai mercati. Nella vostra separazione che avete vissuto, state vivendo, vi pesano di più gli aspetti burocratici, economici oppure quelli emotivi, psicologici? Fate più i conti, insomma, con il denaro o con il cuore? E la domanda la rivolgo soprattutto a chi ha dei figli che devono subire questa decisione e chi è stato figlio e quindi è cresciuto, è diventato adulto con una famiglia separata alle spalle. Che cosa è cambiato? Quali sfide dovuto affrontare? Ci sentiamo subito dopo i mercati. Intanto Mirko, Raffaello e Maurizio li invito a rimanere con noi perché subito dopo i mercati daremo naturalmente voce a loro. Sentiamo i mercati. Cuore e denari. Sì, hai ragione, sei perfetta. Io non ho fatto niente di giusto in 15 anni. Tu non mi stai ascoltando. Non ti va mai bene niente. Non si è mai detto che tu ascolti. Ho detto ti attacchi a ogni minima cosa. E figuriamoci se ti prendi delle responsabilità. Non sto parlando di comunicazione, di sguardi, di qualcosa che dica che io e te siamo in sintonia. Ed eccoci tornati insieme. L'amore non è bello se non è litigarello, ve la ricordate? Bene, però ci sono dei litigi che a lungo andare sfociano in vere e proprie rotture. Noi oggi parliamo insieme all'avvocato Gassani e alla dottoressa Rivolta di divorzio. Un tema che ha un cotè di cuori e uno di denari, perché quando la coppia scoppia si parla di soldi, di assegni di mantenimento, ci sono le rivendicazioni, i ricatti, le rivalse. Un ascoltatore mi scrive: il mondo perfetto che disegnate non esiste, quando ci si separa si è arrabbiati e si usano avvocati e giudici per fare vendetta. Avvocato Gassani, lei ne avrà viste di cotte e di crude, di cuori e di denari. Quali sono i motivi di scontro, le situazioni che spingono la coppia a dare il peggio di sé, a trasformarsi, a trasfigurarsi? L'assegno di mantenimento, la casa, c'è chi litiga addirittura per il cane. È vero, ci sono tante ragioni che possono in qualche modo scatenare una guerra in famiglia. Consideriamo che ci sono le coppie che mediamente si separano dopo 15 anni, ma sono anche le coppie usa e getta, fast food, quelle coppie, appunto, I perplessi sposi, il mio libro, che si sposano semplicemente perché è una convenzione sociale il matrimonio per molti. C'è un atteggiamento consumistico rispetto a questo passo così importante. E quindi mi è capitato di vedere coppie che hanno voluto separarsi al ritorno del viaggio di nozze. E sono i cosiddetti perplessi sposi. Cioè, non avevano letto il libro, insomma. Non avevano letto il libro, vede. Ma sono degli irresponsabili. Sono veramente delle persone irresponsabili, perché io non mi preoccupo tanto l'elevato numero di divorzi. Mi preoccupo dell'elevato numero di matrimoni fast food, usa e getta, cioè matrimoni fatti semplicemente per fare contenti papà e mamma, o perché l'orologio biologico sta dicendo è l'ora. Che è l'ora, o per far organizzare quei banchetti cafonissimi che durano due giorni, si spendono i soldi di risparmi di una vita. E io credo che appunto dobbiamo riflettere molto su questa questione: quanta gente si separa, o meglio quanta gente si sposa con la massima consapevolezza. Allora, se valutiamo che tra agenzie matrimoniali che mettono insieme persone improbabili, coppie improbabili, matrimoni misti di uomini che soprattutto uomini di una certa età che comprano, questo è il termine, ragazze giovanissime che provengono dall'est, perché c'è anche questo fenomeno odioso, quanti matrimoni veramente sono consapevoli? Allora, io credo che la questione è questa: cercare di recuperare il concetto di matrimonio, perché non è che ce l'ha detto il medico di sposarci, possiamo anche andare a convivere. Nel momento in cui noi poi ci sposiamo, ci assumiamo una responsabilità. Quando il matrimonio finisce, si innesca un meccanismo processuale infinito che ha dei costi anche sociali. Quindi credo che un bel corso prematrimoniale, come si faceva una volta, non necessariamente in una parrocchia, anche di tipo laico, sarebbe molto importante. Detto questo, le ragioni per le quali si arriva davanti a un giudice sono innanzitutto una stanchezza che porta poi all'infedeltà coniugale. Ma al secondo posto si assesta la suocera, i suoceri, ecco. Ma la suocera in particolare, cioè il 30% delle separazioni... La suocera di lei o di lui? ma soprattutto di lui, perché abbiamo un fenomeno di mammoni nel nostro paese che è assolutamente ridicolo. Io non so quante volte ho delle donne che vengono nel mio studio e mi dicono: avvocato, la mia nemica numero uno è mia suocera, e mio marito mi mette continuamente a paragone con questa donna, sul ragù, sulla, quindi sulla uno capacità, vuole separarsi di organizzare la casa dalla suocera più che dal marito. Esatto, ma allora elimina il marito. Sì, sì, ma il 30% delle separazioni giudiziali, quindi non è più una barzelletta da salotto, il 30% di separazione giudiziaria dipende dalle ingerenze dei suoceri, e addirittura la Suprema Corte di Cassazione è dovuta intervenire, addirittura addebita la separazione giudiziale al coniuge che ha tollerato le ingerenze dei propri genitori nel menage familiare. Quindi la portata di questi atteggiamenti scorretti, di pensare che i figli siano propri anche a 50 anni, può produrre degli effetti giuridici di grande importanza. Per cui c'è questo fenomeno appunto di figli, soprattutto maschi, che non riescono a liberarsi dalla figura materna e vivono un rapporto con la madre quasi incestuoso. Sì, vivono praticamente un matrimonio a tre, che diventa molto pesante. Abbiamo chiesto... Questo è un problema serio, però, perché credo che da quando la figura paterna, dal 75 in poi, è stata messa da parte, anche giustamente perché era l'Italia del padre padrone, attenzione che siamo passati anche ad un altro fenomeno, quello dei mammoni inguaribili, che è un problema che poi nelle aule di giustizia vediamo tutti i giorni. Se ne avete sposato uno, 800 24 00 24, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di raccontarci anche le loro esperienze da figlio di genitori separati. Voglio leggervi la testimonianza di Laura, che ci scrive: i miei genitori si sono separati quando avevo 10 anni. Ve la leggo perché dagli errori altrui non si impara, ma magari può essere utile. Ora ne ho 28 e mi rendo conto della diffidenza insita in me a causa di un rapporto freddo e di circostanza creato col mio papà. Credo che il loro errore sia stato trattarmi come un'amica coetanea fin da quando avevo 10 anni. Situazione diversa ma ugualmente dolorosa per Giulia, che ci scrive: sono una figlia che ha subito la separazione a 19 anni finché studiavo per la maturità. Mi sono trovata improvvisamente ad essere la donna di casa. Mia madre andò via ed io lavavo, stiravo, cucinavo. Non è stato facile. Dottoressa Rivolta, un commento rapido a queste due situazioni, tutte e due al femminile. Forse Laura e Giulia ci raccontano qualche cosa di più tra le righe dei loro messaggi, così poi diamo la parola ai nostri ascoltatori. Dottoressa. Sì, credo che quello che accomuna queste due testimonianze è un fenomeno che tende a manifestarsi spesso nelle separazioni quando ci sono i figli, cioè che ci si dimentica che i figli sono figli, appunto, sia per l'ascoltatrice che aveva 10 anni che per quella che ne aveva 19. Quello che si sono trovate ad affrontare è il ritrovarsi in un ruolo che non era il loro, che non competeva loro, né essere amici dei genitori, perché i figli non sono amici dei genitori, ma vanno dai genitori protetti, ma nemmeno fare le veci di uno dei genitori. Questo purtroppo è un errore che viene commesso di frequente, in modo inconsapevole naturalmente, perché io faccio sempre salva la buona fede dei assolutamente genitori con cui parlo, però è qualcosa che date le condizioni in cui i genitori si trovano quando si separano, poiché per loro è un momento difficilissimo, si tende a vedere nei bambini o nei ragazzi delle risorse che ancora non hanno. Credo che sia questo che vada sottolineato, cioè lasciare ai figli il loro ruolo, e ricollegandomi a quello che diceva molto pertinentemente l'avvocato prima, riprendersi su di sé la responsabilità di coloro che decidono anche per i figli, perché in fondo siamo noi adulti che abbiamo il potere di influenzare le loro vite in una maniera molto pesante, che poi si troveranno a scontare in qualche modo nell'età adulta. Sì, perché diventano adulti e quindi a loro volta formano una coppia, e l'esperienza che hanno vissuto e maturato quando erano piccoli può segnare naturalmente le relazioni nel bene e nel male che avranno. Edi ci chiama da Vicenza, 800 24 00 24, poi sentiamo Milko da Genova e Raffaello da Padova. Edi, buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono una figlia di separati degli anni 70. Sì. E a parte un'altra amichetta di scuola non ce n'erano altri. Quindi i miei genitori erano criticati e noi compatite. Siccome non mi piaceva essere compatite, diciamo che ho cambiato questa cosa facendone un segno di distinzione, no, in qualche modo. Sì. Poi da adulto ti rendi conto delle cose da risolvere. Invece adesso, vedendo figli separati, tante persone che adesso separarsi non è purtroppo così frequente, e si tende, secondo me, a proteggere troppo i ragazzi, cioè a pensare che la vita, come diceva prima la dottoressa, sia un percorso senza problemi. Invece anche una separazione è un fatto autentico. Io ho sempre preferito che i miei si fossero separati piuttosto che stare insieme a litigare, a urlare. Per me è stato un momento in qualche modo di pace. Io sono rimasta col padre, con tutte poi le conseguenze e tutto quanto di diversità, anche di formazione della vita pratica. Però è meglio un atto di verità piuttosto che vivere, far finta di niente. E poi questi figli in qualche modo a volte comandano i genitori separati, perché li ricattano. È vero, Edi, è quello che ci stanno raccontando. Poi lo conosciamo, ciascuno di noi, se non per esperienza diretta, ha conoscenti, amici, cugini che hanno vissuto una separazione magari con dei figli, e tante volte si tende a spiegare anche le difficoltà che hanno i figli nel corso della loro vita, come sempre segnate da quel momento della separazione dei genitori, e questo non è sempre vero. E anzi, vorrei anche considerare, ma lo facciamo dopo gli ascoltatori, anche il senso di colpa che tante persone che si sono separate si portano dietro nel tempo. Milko da Genova, buongiorno. Buongiorno a voi. Niente, la mia esperienza si colloca nella piena statistica, perché io sono uno di quei 65% che ha divorziato consensualmente, di quella grande maggioranza che ha divorziato a 15 anni dal matrimonio. La cosa più complessa in assoluto che mi sono portato dietro è sicuramente il fatto di rimodulare la parte affettiva con i miei figli. Ne avevo due, all'epoca erano relativamente piccoli, 10 anni e 7, ed è stata complicata. Ora è passato un po' di tempo, il grande ha più di 20 anni, l'altra sta diventando maggiorenne, quindi le cose sono migliorate. È soddisfatto, Milko? È riuscito a fare un buon lavoro? Dovrebbero dirlo loro. Io sono contento del rapporto che ho con loro due, che ho con la mia ex moglie, con la quale paradossalmente non ho litigato neanche nel momento della separazione e del divorzio. Abbiamo portato lo stesso avvocato a ratificare sia la prima che la seconda istanza, e pagando solo metà per uno, quindi la questione è stata sicuramente pacifica. Sì, quasi da manuale. Sì, quasi delle mosche bianche. Esatto, no, non credo, che non eravamo tanti nella condizione. Avvocato Gassani, una coppia che insomma hanno chiesto il divorzio, hanno un divorzio consensuale, è una rarità? No, non è una rarità. Bisogna vedere però quanto c'è di consensuale in ogni separazione, ogni divorzio, perché ci sono separazioni che si fanno consensualmente per pagare meno soldi di avvocato, perché non si riesce a gestire un conflitto, e ci sono poi, come nel caso di questo signore di Genova, dei divorzi di assoluta civiltà. Questi sono esempi, perché nel nostro paese purtroppo c'è una litigiosità di fondo che traspare anche quando apparentemente la coppia si è separata consensualmente. Non dimentichiamo che le peggiori tragedie familiari avvengono dopo separazioni consensuali, che sono consensuali solo sulla carta, poi alla fine succede di tutto di più. Quindi bisogna verificare effettivamente quanto c'è di consensuale, ed ecco perché la mediazione familiare o l'intervento di psicologi è fondamentale, a mio parere, perché i giuristi, avvocati e magistrati non sono in grado di decodificare alcuni comportamenti e prevenire e prevedere le tragedie. Per cui non facciamoci abbindolare da questo elevato numero di separazioni consensuali. Oggi gli italiani non hanno più i soldi per pagare gli avvocati, perché accettano di tutto di più. E denari. Adesso puoi baciare la sposa. D'ora in poi lui si prenderà cura di te e tu ti prenderai cura di lui. Sei la ragazza più fortunata del mondo. Sei la ragazza più fortunata del mondo. Penny, settore M12, torre allampanata toglie visibilità. Scusami, Mary, non troviamo il padre della sposa. Ora ci penso io. Penny, il padre della sposa. C'è l'organizzatrice di matrimoni. Deve avere una vita molto romantica. Ed eccoci, torniamo insieme, parliamo di divorzio. Lo facciamo con la dottoressa Simona Rivolta, che è psicologa e lavora presso il Centro Minotauro di Milano, autore di un libro, La nostra famiglia da qui in poi, e con il nostro, ho detto, Gianettore Gassani, presidente e fondatore dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani e autore di I perplessi sposi. Questi non mi sembravano perplessi che abbiamo sentito nella breve clip Prima o poi mi sposo. Erano un po' affaticati, come spesso capita quando si organizza un matrimonio. Andiamo a Maurizio, che ci chiama da Padova, e subito dopo a Raffaello. Maurizio, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei, benvenuto, grazie, mi scuso per l'attesa. Nessun problema, mi sono messo da parte, stavo guidando. Ecco Maurizio, se vuole magari raccontarci o fare la sua domanda ai nostri esperti, noi siamo qua. Beh, inizialmente ho chiamato per fare una domanda, poi sentendo un po' gli interventi di tutti quanti vi accenno un po' la mia storia, perché penso di far parte di quegli responsabili di cui parlava l'avvocato. Sì. Relativamente anche alla percentuale del 30% che hanno problemi per causa della suocera. Ah, quindi lei è proprio il nostro ascoltatore. In questo caso però la suocera... Diciamo, in questo caso la suocera è la madre di mia moglie. Ecco. Vabbè, sai, se ci si sposa ognuno si becca qualche suocero, così, insieme alla moglie, insieme al marito, tocca. Allora Maurizio, veniamo a lei. Sì, 6 mesi di matrimonio, 2 anni di convivenza, sì, e 2 anni di fidanzamento. Sì. Quindi in pratica dopo 4 anni e mezzo... Sono bastati 6 mesi per mandarvi in crisi. Sono bastati 6 mesi per mandarci in crisi, in realtà già durante i preparativi del matrimonio si è fatta presente questa suocera, questa matriarca. E lei non se l'è sentita di tirarsi indietro? Beh, io no, durante i preparativi ho avuto un po' di tentennamenti, qualche volta le ho anche detto che non l'avrei più sposata, ma poi il sentimento che comunque provo per lei mi ha fatto andare avanti. Ci siamo sposati il 30 di agosto, però già dopo il matrimonio continuavano i litigi per via di questi preparativi, di questa madre così invadente, e per via del fatto che lei a un certo punto, mia moglie, non era più la donna che conoscevo, nel senso che prima era combattiva e resistente, e invece con la madre è diventata succube e accondiscendente. Quindi dalla sua storia se dovrebbe, come ho detto, secondo me non, gli errori degli altri non si impara tanto dagli errori degli altri, ma possono aiutarci ad accendere magari un pensiero. Quale consiglio si sentirebbe di dare dai suoi 6 mesi di matrimonio, dopo praticamente 2 anni di convivenza, a chi ci sta ascoltando? Beh, non so, non credo di essere in grado e nella posizione in questo momento per dare dei consigli, anche perché mia moglie ha già avviato le procedure per la separazione, sì, consensuale, senza nessuna richiesta di mantenimento, senza nulla. Però credo che forse bisogna conoscere molto a fondo una persona prima di fare un passo così importante, e a volte bisogna mettere da parte quello che ognuno è per far valere quello in cui crede. Ecco, io per esempio forse avrei dovuto essere un po' più col pugno fermo, dicendo che questa presenza di questa suocera forse non andava giù tanto bene. E invece, in quel momento, per amore. Maurizio, lei come si sente adesso? Io è una lacerazione la separazione, va metabolizzata. Gli psicologi, la dottoressa Rivolta mi correggerà, insomma, dicono che è un lutto che va elaborato. Beh, io in realtà adesso sono passati 2 mesi da quando non viviamo più insieme, dal 16 di febbraio, ho avuto la forza di cominciare un percorso insieme ad un terapeuta per farmi aiutare, è un lutto molto, molto difficile da digerire, sì. Per fortuna ho molte soddisfazioni al lavoro che mi permettono di andare avanti. Insomma, bisogna un po' ricostituirsi e ristrutturarsi. Andiamo a Raffaello, grazie Maurizio, devo passare la linea a Raffaello da Padova perché ci sta aspettando da un po'. Raffaello, buongiorno. Buongiorno. Io sono divorziato, sì, e volevo portare la mia esperienza, magari nella parte iniziale non è comune, nella parte della tempistica, e poi fare un paio di considerazioni. Allora, intanto volevo dire che quando ci si separa non è perché la sera prima si è litigato a tavola su quello che si doveva far da mangiare, nel senso che il malessere è ormai consolidato, perché se si giunge alla decisione di separarsi, io ho 4 figli, 2 con la ex moglie, 2 con la mia attuale compagna, quindi anche se ci sono dei figli uno ci pensa veramente un sacco di volte, sì. Per cui quando si arriva alla separazione è una cosa meditata, da lì in poi per divorziare ci vogliono 3 anni. Allora, intanto per la separazione io ho fatto un'esperienza dolorosissima ma utilissima, che è il servizio che dà la nostra USL, un servizio di mediazione familiare finalizzato alla separazione. Ok, quindi quello era l'obiettivo. Abbiamo fatto 10 sedute e siamo arrivati a degli accordi consensuali seguiti dal terapeuta e da un avvocato che metteva a disposizione sempre l'USL. Ci separiamo e dopo 3 anni io chiedo il divorzio, visto che avevo già sofferto abbastanza. Sì. E il divorzio non me lo concede consensualmente, per cui non c'è verso, e quindi io devo andare per vie legali. Morale della favola, 3 anni di causa, non entro nel merito delle cose, e nella causa mi viene fatta un'ulteriore causa come ricorso ai provvedimenti provvisori presi dal giudice, per cui ho 2 cause da seguire. Morale della favola, insomma, tutto si chiude dopo 3 anni, in primo grado ovviamente, si dice, e io ho già altri 2 figli con la mia compagna. Quello che voglio dire è questo, che ovviamente gli schemi temporali sono del tutto anacronistici, fuori da ogni luogo. Faccio poi tenere presente che i miei 2 attuali figli, visto che io ho dovuto aspettare tutto questo tempo, sono al di fuori di una famiglia sancita a matrimonio, mi pare che sia 1 figlio su 3 in Italia in questa condizione. E in più volevo anche dire, visto che la dottoressa ha detto che la donna non si accontenta più, che forse sarebbe ora appunto di, anche in sede di provvedimenti giudiziari, perché per carità la mia esperienza magari non è stata così negativa da quel punto di vista, di dare un taglio alla donna. Io vivo nel nord, quale quello è? Ha un ruolo di dipendente, di autonomia anche dal punto di vista professionale, per cui non è proprio così la persona che deve essere tutelata, tutti e due devono fare la stessa parte. Nel mio caso, voglio dire, ho trovato anche in ambito processuale questo tipo di taglio. Io ho dei colleghi di lavoro la cui vita è stata probabilmente, dal punto di vista della possibilità di una nuova vita, interrotta del tutto dal punto di vista economico. Non infatti, c'è alcuna, guardi, possibilità che hanno. Raffaello, passiamo. Io la ringrazio per la sua testimonianza. Vorrei appunto passare la parola all'avvocato Gassani, perché ci riporta la testimonianza di Raffaello sul tema che lei ha accennato, e cioè in tempo di crisi divorziare è ancora più dura. Ma assolutamente non ci sono soldi, ma non c'è dubbio, e i soldi ce ne vogliono tanti. Separazioni e divorzi impoveriscono moltissimo. Devo anche dire però ci sono delle esperienze, però, come ci ha raccontato il nostro ascoltatore, di mediatori, psicologi, una macchina che si mette in moto, che aiuta la persona che sta divorziando senza necessariamente fare ricorso, no, a dei liberi professionisti. No, l'avvocato ci vuole comunque, lo psicologo, in ogni caso, dico, si il va mediatore. Davanti al giudice, comunque ci deve essere un'omologa degli accordi, ma la mediazione familiare fatta ad alto livello secondo me è fondamentale, lo dico senza problemi. Il problema è che sugli assegni di mantenimento c'è stata una drastica riduzione del numero degli assegni in favore del coniuge più debole, quasi sempre la donna. Si è passati dal 60% di 30 anni fa al 17% nel nord e al 21% nel sud. Allora di assegni ne parliamo subito dopo il GR, aspettiamo le vostra telefonata a 800 24 0024. Cuore e denari. Ricordatevi una cosa, ogni divorzio inizia sempre con un matrimonio. Ma se quelle sono figlie a te, tu le hai cresciute, tu le hai educate, mo te tiene. No, ti tieni tu. Ma te tiene tu. E basta. E che bella famiglia. Luca, la mia vita è finita. La mia invece è appena cominciata. Il matrimonio, carissimi signori, è il più grande errore che un essere umano può fare sulla faccia della terra. Voi ridete, ma arrivano tantissimi messaggi. Uno fresco fresco: il consiglio forte è: giovani, non sposatevi, ci scrive Sandro. 800 24 00 24. Bentornati, torniamo con i nostri esperti ad affrontare il tema del giorno. Parliamo di divorzio, tra l'altro, avvocato Gassani, quest'anno ricorrono i 40 anni dal referendum sul divorzio, sono cambiate tante cose e anche l'assegno di mantenimento. Sì. Ha avuto dei cambiamenti, anche assolutamente. Se mi spiega, alcuni parlano di assegno di mantenimento, altri di assegno di divorzio. Sono sono due fasi diverse, la stessa fondamentalmente cosa? Fondamentalmente sì, anche se l'assegno di mantenimento riguarda la fase della separazione, l'assegno divorzile è un assegno di natura assistenziale, un po' diverso, ma se non è zuppa è pan bagnato. Sì. Si tratta di un contributo economico che il coniuge più ricco è tenuto a dare al coniuge più povero. Ora, le cose stanno cambiando, sì. Vorrei tranquillizzare un po' i radioascoltatori. Gli assegni di mantenimento per le mogli oggi sono veramente molto rari. Ovviamente se la donna è anziana, è inabile al lavoro o ha un reddito notevolmente inferiore, ovviamente vige la legge e l'obbligo di mantenere appunto questa persona. C'è anche un numero di donne che mantengono gli uomini, attenzione, il 4% di mogli che mantengono i mariti, perché la legge è uguale per tutti. La questione quindi riguarda gli assegni di mantenimento per i figli, e spesso il mantenimento per i figli viene assicurato anche a figli di 40 anni, perché non c'è più un limite di età. I nuovi orientamenti giurisprudenziali, le nuove leggi parlano chiaro, per cui molte volte i genitori, soprattutto i padri, bisogna dirlo, sono costretti a mantenere anche figli quarantenni. Ne avevamo, si ricorda, ne avevamo proprio parlato, sì, insieme sì. A Debra avevamo fatto proprio una puntata su questo, potete trovarla tra l'altro in archivio. Beh, questo è il segnale di grande difficoltà del nostro paese, economico, probabilmente anche morale, perché quando un quarantenne cita in giudizio un padre pensionato e lo trascina in tribunale, francamente c'è poco da stare allegri. La situazione parla da sola, direi. Beh, no? Sì, io penso che molte volte la giurisprudenza deve stare attenta a non portare avanti degli orientamenti che poi vanno a devastare anche i rapporti tra familiari, perché c'è stato poi un aumento esponenziale di cause di figli trentenni, quarantenni contro i genitori. Tutto questo, secondo me, nonostante la crisi economica, non è giustificabile. Noi a 18 anni lavoravamo e non so per quale motivo un 35enne oggi dice non c'è lavoro, perché magari vorrebbe avere chissà quale lavoro, e cita un 80enne il padre in tribunale. C'è da riflettere molto anche su questa questione. La questione vera delle separazioni sono gli affidamenti dei figli, che portano con sé i soldi. C'è una tragedia su questi figli contesi. Sì, penso una tragedia, avvocato, e la dottoressa Rivolta può confermarlo, una tragedia sì per i soldi, ma anche proprio per i figli, che si trovano veramente a volte in delle situazioni molto difficili per essere affrontate da un ragazzino, cioè sballottato tra un padre e un altro. Avevamo un'ascoltatrice che voleva proprio intervenire su questo tema, ma è caduta. 800 24 00 24. Dottoressa Rivolta, sì. A proposito di figli contesi e figli mantenuti. Ma io sono d'accordo con l'avvocato riguardo la sostanziale assurdità del mantenimento dei figli oltre una certa età. Naturalmente scontiamo tutte quelle situazioni di evidente necessità, che però fortunatamente sono una minima parte rispetto al complesso delle situazioni che trattiamo. Riguardo ai figli contesi, credo che ci siano alcuni luoghi comuni da sfatare, tra cui per esempio quelli secondo i quali chi chiede l'affidamento di un figlio, e ho in mente un caso che probabilmente avete in mente anche tutti voi, quello di quel ragazzino qualche mese fa, fisicamente conteso tra poliziotti e parenti di fronte a scuola, sì. in cui è come se l'idea fosse che il ragazzino o il bambino è una sorta di oggetto di proprietà, no? Per cui come se non avesse pensieri, sentimenti e desideri propri. Questo è un atteggiamento piuttosto comune, in cui, come cerco di spiegare anche nel libro, è come se si pensasse che l'effetto di ciò che i genitori dicono o fanno passa direttamente dai genitori ai figli e li condiziona completamente. Questo non vuol dire che i bambini e i ragazzini debbano avere l'ultima parola su con chi stare, dove starci, per quanto tempo, perché altrimenti si corre il rischio opposto, si parlava prima, no? Di essere tiranneggiati anche dai figli, insomma, sì, di essere tiranneggiati dai figli, ma soprattutto di fare dei figli degli adulti. Allora, quando si dice ascoltare i figli, si intende dare dignità a quello che dicono, interpretare quello che dicono, ma non affidare a loro le decisioni. Questo proprio perché, non essendo adulti, sono gli adulti che sono tenuti a prendere le decisioni. Noi dobbiamo rimanere genitori, lo rimaniamo tutta la vita, ma genitori adulti. Margherita da Parma, buongiorno. Salve, buongiorno. Me l'ero persa, bentornata. Sono ritornata, innanzitutto complimenti per la trasmissione che migliora la qualità della mia vita, quindi grazie mille. Grazie a lei, Margherita. Io volevo dare la mia testimonianza da figlia di separati, ho 37 anni, non sono moglie, non sono madre, quindi non ho sperimentato personalmente separazione o maternità. I miei si sono separati nel lontano 88, quindi le cose sono molto cambiate sia in termini di legislazione che di gestione figli, però volevo darla lo stesso come testimonianza, visto che sono un'adulta e qualche grazie. Trauma mi è rimasto. E, a differenza forse di cosa stava dicendo l'intervento precedente, io penso all'epoca non c'era affidamento congiunto praticamente, cioè c'era di forma ma di fatto veniva affidato totalmente alla madre il minore. Preciso che io sono figlia unica, quindi il trauma è stato aumentato proprio dall'essere figlia unica, quindi tutto l'ho dovuto gestire io, il mio essere figlia. Nell'88 veniva affidato totalmente alla madre. Mia madre, in buona fede, mi ha sempre detto: tu puoi vedere papà quando vuoi, cioè chiamalo quando vuoi, veda lui quando vuoi. Questo mi ha caricato di molta responsabilità, quindi io vedo di buon occhio questo decidere i giorni in cui si sta col padre, con la madre, molto proprio perché forse me. Margherita, come ci ricordava la dottoressa Rivolta, insomma, il bambino ha bisogno di essere accompagnato, deve essere ascoltato, esatto. Ma non deve essere lasciato solo nel prendere queste decisioni. Come donna di cuore mi occupo spesso naturalmente di salute e ho pensato che se il divorzio fosse una malattia, sarebbe una malattia causata da tanti fattori, richiederebbe, come spesso succede, un approccio multidisciplinare, perché quando due persone divorziano, spesso a spingerli a questa decisione sono motivi diversi, non dall'oggi al domani come ci raccontava l'ascoltatore, e per sciogliere l'impegno hanno spesso bisogno di coinvolgere più figure professionali, le abbiamo nominate, c'è l'avvocato, il mediatore, in alcuni casi la psicoterapeuta come la dottoressa Rivolta che abbiamo in linea, senza contare tutte le pratiche che si devono svolgere, anche le fatiche che ci si deve sobbarcare da soli quando prima invece venivano divise in coppia. Per questo è nata, pensate, una nuova figura, la Divorce Planner. Buongiorno a Milena Stojković, che ha fondato la prima agenzia europea di Divorce Planning a Roma ed è autrice del libro pubblicato da De Agostini sul divorzio. Allora ciao, divorziare senza farsi troppo, tra parenti. Male. Buongiorno Milena. Buongiorno a tutti, un saluto speciale all'avvocato Gassani e alla dottoressa Rivolta che ho ascoltato con grandissimo interesse. Grazie. Allora, grazie. Il ruolo del wedding planner lo conosciamo, sono nati anche dei programmi televisivi. Lei è il suo alter ego? Quello che il wedding planner unisce, lei separa? Insomma, come si articola la sua attività? Beh, l'agenzia di divorce planning riunisce al suo interno vari professionisti, avvocati, mediatori familiari, psicoterapeuti di coppia, commercialisti, e in questo modo riusciamo ad affrontare tutti gli aspetti di una separazione, sia quelli pratici, cioè legali e finanziari, e quelli emotivi. Io come mediatore familiare ricevo le persone che si rivolgono a noi e insieme decidiamo quale percorso intraprendere, perché molte volte succede che lavorando con le coppie sull'apertura di una comunicazione funzionale riusciamo a volte anche a farli superare il problema e rimanere insieme, quindi non solo verso la separazione ma anche verso il recupero della coppia, la rappacificazione. Ma mi spieghi un po' qual è il profilo tipo del suo cliente? Benestante? Più uomini o donne? Vengono invece in coppia? Allora, sono di solito professionisti, insegnanti, impiegati, artisti, donne e uomini, una percentuale leggermente più alta le donne si rivolgono a noi, ma anche gli uomini. Di solito vengono da soli e poi, se è il caso, coinvolgiamo anche il partner. se bisogna andare in psicoterapia di coppia oppure se bisogna intraprendere una mediazione familiare, dobbiamo coinvolgere il partner. Assolutamente. Mi scusi, ma quanto costa in più rispetto al fare da sé? Beh, io direi che costa di meno, perché avere a disposizione ottimi professionisti e qualcuno che ci aiuta a trovare la soluzione giusta e soprattutto a non sbagliare può farci risparmiare tempo, energie e anche denaro. Poi si sa, quando si affronta il disagio emotivo in terapia oppure con uno psicologo, è più facile risolvere i problemi legali e finanziari e l'iter giudiziario ovviamente si accorcia, quindi si spende di meno. Ricordiamoci sempre che la disorganizzazione costa. Assolutamente. Senta, ma se lei volesse dare un consiglio ai nostri ascoltatori? Un consiglio che l'avvocato già con uno, ecco. Durante la separazione di focalizzarsi sul presente e sul futuro, perché rimuginare sul passato non porta alle soluzioni costruttive dei nostri problemi. Mi piace, lo taglieremo e naturalmente lo metteremo sulla nostra pagina di Cuore Denari. Grazie, complimenti. Grazie a voi, buongiorno. Avvocato, mi sembra che sia un buon consiglio. Invece... assolutamente sì, un ottimo consiglio. Speriamo che questa sia un'ulteriore risorsa per abituare gli italiani a divorziare, non dico col sorriso sulle labbra come fanno gli anglosassoni, ma a divorziare civilmente. Addirittura col sorriso sulle labbra? Beh, ci sono addirittura delle feste di divorzio in Inghilterra o in America, ma basti pensare che la famiglia... Lo abbiamo detto tante volte qui ai microfoni di Radio 24, la famiglia quando si sgretola uccide più della mafia. Cioè attenzione a questa, alle separazioni e ai divorzi, perché sono materie altamente pericolose, perché non si sa dove si va a finire quando, se non c'è un intervento autorevole dell'avvocato, del magistrato specializzato, del mediatore familiare. Quindi noi ogni giorno facciamo la conta dei morti, ma la famiglia oggi è il teatro dei reati peggiori, per cui attenzione. Qualsiasi risorsa che possa in qualche modo abbassare il livello del conflitto deve essere salutata con favore. Non deve esistere il corporativismo, cioè l'avvocato che ha paura del divorce planner perché perde il cliente, o ha paura della mediazione familiare perché pensa di dover dividere la parcella con il mediatore, perché ragionando così non si esce vivi da questa storia. Il problema è un altro, che l'affidamento condiviso nel nostro paese non esiste. In effetti esiste ancora un genitore di serie A e un genitore di serie B, e lo dobbiamo dire, per cui non c'è ancora la cultura che la legge sull'affidamento condiviso voleva introdurre nel nostro paese, cioè che si è genitori sempre, anche dopo la separazione, e che entrambi i genitori devono essere presenti nella vita dei figli, come succede in tutti i paesi d'Europa. L'Italia è un paese in cui purtroppo le leggi sono scritte sull'acqua come le sentenze, e devo dire, ho sempre difeso a spada tratta il mondo femminile, però devo anche dire che gli uomini sono stati particolarmente vessati sul fronte dell'affidamento condiviso, perché ogni giorno in tribunale dobbiamo sudare le sette camicie anche per avere due ore in più di visita del padre ai figli, e questa è una cosa vergognosa che non è degna di un paese civile. Dobbiamo, appena Deborah, pensare di fare una puntata sui padri, e naturalmente in quella puntata speriamo che possa raggiungerci anche Alberto Pellai, medico psicoterapeuta che con i papà organizza da tempo dei circoli del papà. Alberto, bentornato. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, per una puntata dedicata alla fatica di un papà, che spesso in una situazione di divorzio e di separazione si sente genitori di serie B, come accennava l'avvocato Gassani, sicuramente bisogna dedicare una puntata e riflettere per aiutare anche i padri a non sentirsi genitori di serie B e aiutare le mamme a non farli sentire tali. Sì, assolutamente, credo che poi va proprio un po' valutata genitore per genitore la competenza genitoriale, la capacità di stare a fianco del proprio figlio, e questo oggettivamente in questo momento proprio non ha più genere. Ci sono papà davvero molto molto competenti, molto capaci di assolvere, e sono spesso la figura di attaccamento per il loro bambino, quindi questa cosa deve essere sempre tenuta in considerazione. Molti ascoltatori mi hanno scritto che il matrimonio è un fattore di rischio per il divorzio, un po' come battuta, e io almeno ne sono arrivati 7-8 di queste frasette. Però a proposito di fattore di rischio, secondo gli esperti, tra i fattori di rischio per l'unione di coppia c'è l'arrivo di un figlio, Alberto, che spesso va ad alterare gli equilibri. Le coppie iniziano ad allontanarsi proprio perché affaticate forse dalla gestione del nuovo arrivato, e io credo anche dalle responsabilità che in un periodo come questo sembrano ancora più gravose. Di questo tu parli nel tuo libro che esce proprio domani, I papà vengono da Marte, le mamme da Venere, in cui proprio affronti questo problema e in cui, come sempre, dai consigli utili di prevenzione ai genitori, quindi ai genitori che si trovano a fare i conti con un bebè particolarmente impegnativo, piacevolmente impegnativo come lo sono tutti i bambini nei primi mesi, che mette un po', no, a prova l'unione della coppia. Alberto. Ma sì, io credo che tutti quelli che sono diventati genitori l'hanno sperimentato sulla propria pelle, cioè l'ingresso soprattutto del primogenito, del primo figlio nella vita di coppia è un momento di incredibile riorganizzazione, prima di tutto delle relazioni all'interno della propria coppia e poi anche proprio della propria agenda di vita, delle proprie priorità di vita. Le coppie devono affrontare una crisi, devono riorganizzarsi, devono rimodellarsi, devono andare incontro a molti momenti e passaggi che sono davvero faticosi. Se non ce la fanno, rischiano proprio un po' quello che si chiama il baby clash, cioè di scoppiare per aria a causa dell'arrivo del proprio bambino. Invece sopravvivere nella giusta modalità all'arrivo di un figlio, riuscire ad attraversare un po' quel triennio che dà moltissime gioie, moltissima felicità, ma per i due adulti, l'uomo e la donna, che prima erano compagni di vita e ora sono genitori, è davvero una sfida. Ecco, riuscire a sopravvivere a questo triennio poi significa fortificare. È tutto in discesa, dici tu. Beh, insomma, non tanto, aver trovato una nuova intesa, un nuovo modo di stare insieme e soprattutto aver imparato a leggere quello che c'è nella mente dell'altro, quindi costruire un modello di coppia molto più flessibile, capace, ecco, di aprirsi all'innovazione e al cambiamento. Allora, un consiglio concreto e pratico per chi ci sta ascoltando ed è magari sfinito dalle notti insonne del bambino, diventiamo nervosi, si litiga e allora si inizia a rinfacciare i turni e tu sei stato sveglio e tu dormivi. Carmelo Lauricella in regia sta annuendo e non hai comprato i pannoloni e tutto pesa su di me ed è facile. Che si fa, Alberto, concretamente? Guarda, direi proprio velocemente tre cose. Uno, se la mamma è troppo stanca, il papà deve davvero turnarsi con lei nei passaggi che fanno perdere sonno, altrimenti la coppia scoppia. Due, la salute sessuale della coppia è un buon indicatore di come la coppia sta affrontando questa nuova zona. E la terza cosa è, dopo il sesto mese, quando il bambino è molto prevedibile, la coppia deve reimparare a riacquisire anche il ruolo di uomo e donna, cioè inventarsi per esempio un momento per sé senza la presenza del bambino, che si può dare ai nonni. Esatto, bravissimo, da quando stanno seduti da soli. Allora, grazie alla dottoressa Simona Rivolta, psicologa presso il Centro Minotauro di Milano, che è stata con noi. Grazie, dottoressa, autrice della Nostra Famiglia da qui in poi. Buona giornata e grazie. Grazie altrettanto. Ad l'avvocato Gianetto Regassani, sempre una garanzia. Avvocato, grazie. Grazie a voi. E naturalmente ad Alberto Pellai. Vi ricordo che potete continuare a scrivere, perché andando sul nostro pagina di Cuore Denari c'è l'iniziativa Cuore Denari e Vitali. Leggete, scrivete, inviate, noi siamo qua. Domani vi aspetto e Deborah ritornerà il venerdì 2 maggio. E, che dire, buona giornata, domani.